tema che viene suggerito dal temario di questo ritiro è gratitudine. E penso che nel momento in cui abbiamo pensato i temi del ritiro di ottobre, la gratitudine sia venuta in mente come virtù che è legata anche a quello che nostro padre, San José Maria, ci suggeriva di vivere il 2 ottobre, no? Nella data fondazionale dell'opera, come atteggiamento di gratitudine a Dio che ha dato questa grazia, a lui e pensando a noi e pensando a tante persone a cui arrivare nel mondo per suggerire questo cammino di santificazione in mezzo al mondo e vivere il Vangelo nella quotidianità della vita ordinaria del cristiano. E come sappiamo, quindi nostro padre in questi giorni in cui ricordava l'intervento di Dio forte nella sua vita, la sua vocazione, era portato a ringraziare Dio, poi anche a chiedergli perdono per le manchevolezze. E io penso che ecco, oggi nella messa della 26ª domenica del tempo ordinario, noi pregavamo nella colletta: O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a infondere su di noi la tua grazia, eccetera, no? Perché camminando verso i beni da te promessi diventiamo partecipi della felicità eterna. Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono. Mi colpiva leggendo il libro di padre Hermes Ronchi, che si intitola Le nude domande del Vangelo, che poi sono le sue meditazioni al Papa e alla Curia Romana di un paio d'anni fa, che in un passaggio diceva, ecco, nella liturgia questa caratteristica dell'onnipotenza di Dio è molto ricordata. In realtà, poi invece nel Vangelo Gesù non la cita, perlomeno con la parola, no? Con questa parola, non cita questa parola, parlando del Padre. E noi infatti ricordiamo che in questa preghiera si fa sintesi di questi due concetti, no? L'onnipotenza che si manifesta con la misericordia e il perdono, che nelle parole di Gesù è così invece presente, no? Nel parlare del Padre. Il Padre stesso vi ama, il Padre che perdona, no? Che viene incontro. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, no? Sulla croce Gesù. Quindi questa caratteristica del Padre è molto più presente che la sua onnipotenza, e possiamo dire che l'onnipotenza si manifesta nel perdono, no? Nella misericordia. E questo è un aspetto penso che questa paternità di Dio, questo suo amore sorprendente che ci avvolge, che ci vuole bene così come siamo, che ci chiama ad essere suoi con le nostre caratteristiche, che peraltro ci ha dato lui. Sia se noi lo contempliamo con pace, se noi abbiamo la grazia di avere attorno a noi persone che ce lo ricordano, no? Padri e fratelli che ci danno questa immagine di Dio, indubbiamente questo ci induce alla gratitudine, no? Gratias tibi Deus, gratias tibi, cioè grazie a te, Signore, grazie a te perché perché mi hai creato, perché mi hai chiamato a essere figlio tuo, perché mi hai fatto cristiano, perché mi hai dato questa vocazione a servirti nella Chiesa, perché eccetera, no? Perché hai fatto così bella tua madre, che è anche ma madre mia, no? E lì possiamo, poi una volta che entriamo in questa logica dello stupore per l'amore infinito di Dio, possiamo, ecco, possiamo inventarci tante, una sorta di, ecco, tante litanie di gratitudine. Forse anche chiedendo la grazia al Signore di riuscire a ringraziare anche per ciò che umanamente non è bello, non è gradevole, è faticoso. E nel Vangelo di oggi, ecco, Gesù parla con i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e gli fa, come è capace di fare Gesù, con i farisei è particolarmente abile Gesù nel fare indovinelli facili da risolvere, no? Rebus, così è come alcuni rebus che abbiamo visto recentemente sul nostro gruppo di WhatsApp, no? Facili da risolvere, no? Perché in effetti, ricordate a Simone il fariseo che dice, uno doveva solo 50, l'altro doveva 500, chi lo amerà di più? Insomma, anche uno scemo, no? Sa rispondere. E un po' li tratta così, li tratta un po' da gente così di poca intelligenza. No? Beh, chi indurisce il cuore, no? Arriva a essere anche indurito nella testa, no? Però Gesù dice, allora, un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse, figlio, oggi va a lavorare nella vigna, e gli rispose, non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò, si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose, sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero, il primo. Ce l'hanno fatta tutti insieme, no? E Gesù approfitta di questa loro, cioè li ha portati verso di sé, gli ha fatto, ecco, un indovinello di facile risposta, e per fargli vedere che sono, in fondo, sono intelligenti, gli ha aperto un po' la testa, e poi in questa apertura si inserisce per dargli una bella, insomma, una verità molto forte per loro, no? In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Certo è che quella via della giustizia che Giovanni gli ha svelato è una giustizia diversa da quella che loro hanno in testa, no? E non cambiano idea. In fondo il Signore sta dicendo a loro che uno aveva due figli, cioè che ciascuno dei figli ha difetti, no? E non c'è nessuno perfetto. Infatti non c'è un terzo figlio che dice di sì e va subito, no? E vuole aiutare questi capi dei sacerdoti, anziani del popolo, a comprendere che anche loro sono così, no? Ecco, vi ricordate quando diceva chi è senza peccato scagli la prima pietra, no? Siamo tutti peccatori, no? In questo senso bisogna evitare quella gratitudine sbagliata che è proprio quella del pubblicano. Nella parabola di San Luca, ti rendo grazie, Signore, perché non sono come tutti gli altri uomini, ladri, adulteri. Questa è una gratitudine sbagliata perché non è basata sulla verità, non è basata sulla verità. E invece la gratitudine vera è basata sulla verità che siamo peccatori perdonati, che siamo continuamente amati dal Padre così come siamo, no? Con tutti i nostri difetti. E quindi il Signore è contento che compiamo la sua volontà, anche se diciamo non ne ho voglia, se arriviamo dopo, no? Questa, ecco, è gratitudine per Dio che perdona, no? Per tutto possiamo avere gratitudine, in modo particolare per questo. Il nostro padre raccontava, no? Aveva l'esperienza di persone lontane dalla fede che giustamente si meravigliavano di più di questa caratteristica di Dio che non della creazione e di altre grandi potenze di Dio. Un Dio che perdona. E in effetti anche noi siamo chiamati da Gesù ad assomigliare al nostro Padre Dio con questa caratteristica. Infatti è la giustizia che il Signore suggerisce, cioè se anche voi fate così, Dio vi perdonerà, no? Se voi perdonate al vostro prossimo, allora Dio vi perdonerà. Non è altra la logica del Vangelo, no? Quindi il tentativo di essere perfetti perché così allora il Signore ci ama, sappiamo che è sbagliato, no? Non è questa la santità. E la santità è riconoscere i propri errori, per cui anche noi ci sbagliamo proprio quando raccontiamo di un santo dicendo sempre solo il bene, no? Ma è sbagliato, sicuramente è un peccatore. Un peccatore che ama Gesù Cristo, si definiva nostro padre, un peccatore che Dio ha guardato, no? Dice il Papa di sé e di ciascuno di noi. È fasulla una biografia che non contenga appunto la debolezza, no? La fragilità. La conversione continua e di questo possiamo essere molto grati al Signore, perché in fondo qualunque cosa può essere veramente considerata come l'omnia in bonum, no? Come tutto coopera il bene per coloro che amano Dio, di San Paolo, e tutto può essere trasformato in bene, da tutto Dio può tirare fuori il bene, quindi questa grandezza di Dio che perdona, che salva, che è venuto per i peccatori, non per i giusti, ecco, questo ci porta a essere molto grati. Poi essere evidentemente coinvolti in questa missione, questo debito che la Chiesa ha con il mondo, di dire guarda che Dio ti ama, che Dio è morto per te, che Dio è risorto per te, che Dio ti chiama così come sei, nonostante tutto, che puoi essere santo perché puoi essere figlio. E la cosa che più ci sorprende è che e che la gratitudine somma è, cioè l'atto di grazie più grande è la messa, che significa per noi è che la ripresentazione del sacrificio della croce, che include la risurrezione e l'ascensione al cielo, quindi è tutto il mistero pasquale, però quel gesto di Gesù sulla croce è un gesto di infinita adorazione, di infinita gratitudine a Dio, Eucaristia, no? Ringraziamento. Allora, forse lì possiamo trovare il motivo profondo e la forza per ringraziare sia anche di ciò che non è bello, che non va bene, che umanamente che anche ripugnano, cioè ciò che fa soffrire, ciò che in fondo che ci unisce alla croce di Cristo. No? Anche quello può essere vissuto con gratitudine, non è facile, anzi forse è impossibile umanamente. E però è quello che anche nella lettura di San Paolo ai Filippesi della messa di oggi noi leggevamo, in un clima di carità fraterna, no? San Paolo dice: se c'è qualche consolazione in Cristo, quindi doni di vita, doni di grazia, no? Doni di vita spirituale, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, allora se c'è tutto questo, quindi se rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire, con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi, quindi fate ancora di più, no? Rendendo con una unità che dà piena gioia appunto all'Apostolo Paolo. Non fate nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri superiori a se stesso. Ma qui non c'è la parola gratitudine in queste parole, in questo passo di San Paolo, che pure la parola gratitudine o rendere grazie a Dio è molto presente nelle lettere di San Paolo, di più che nel Vangelo. Di più che nel Vangelo. Ci sono alcuni momenti in cui la parola accade, avviene, viene citata, però si capisce dopo la Pasqua il sentimento più forte è quello della gratitudine, no? La grazia a Dio per la redenzione, grazie per la riconciliazione, grazie perché tutte le grazie che dà a noi, grazie per quello che lui vede nelle chiese, no? Siano rese grazie a Dio. E quando il padre è venuto qua a Milano, abbiamo percepito questa, non solo questa paternità che vuole bene così come noi siamo, ma anche la gratitudine a Dio per tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni, no? Di vita della Busei in questa qui in Italia, no? La gratitudine, si capisce che nella gratitudine vera deve essere dentro la gratitudine anche la consapevolezza, per esempio, di tanti errori che abbiamo fatto, no? Personalmente, collettivamente, ma la sfida vera è mettere dentro questi errori nella gratitudine, no? Essere grati anche per le sofferenze subite, no? È molto difficile, ma penso che Gesù porta sulla croce tutto questo, e nella sua croce c'è tutto questo, no? Quindi quando San Paolo ci chiede di fare nostri i sentimenti di Cristo, abbiate voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini, tutta l'incarnazione. E poi è il mistero del Pasquale. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò. È un mistero da contemplare continuamente e da chiedere la grazia a Dio, di cui lo ringraziamo in anticipo, se ce la dona, di avere appunto la luce, la capacità di cogliere come identificazione con lui quello che possa essere dolore, no? Come accadde quel giorno a nostro padre, quel 16 ottobre sul tram, quando si sentiva schiacciato tra la terra e il cielo, in un sacco di difficoltà, dopo la vocazione ricevuta, e a un certo punto ricevette la grazia di capire che tutto quello lo rendeva Cristo, no? Cioè tu sei Cristo, no? Lo rendeva figlio di Dio sul serio, e ecco, identificandolo con Gesù, e tutto quello era una grande grazia. Pur rimanendo una grande sofferenza. Una grande, non è che in quel momento, in quell'orazione così, cioè, così alta, si risolsero i problemi. E questi sono doni molto grandi, che vi ricordate forse, no, nel nuovo millennio Neunte, il Papa che, parlando del volto di Cristo sofferente, si parla di questi santi che hanno ricevuto questi doni, no? Di essere gioiosi nella sofferenza, no? Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Questo è un piegarsi delle ginocchia ovunque, è un piegarsi di gratitudine, no? E ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre, no? Nel guardare come nel Vangelo si parla di gratitudine, nei momenti in cui se ne parla in modo esplicito, mi colpiva che in quell'episodio. In quell'episodio dei 10 lebbrosi guariti, no? Che racconta San Luca, e torna solo il samaritano, no? Per ringraziarlo, così dice la traduzione, e si getta ai piedi di Gesù per ringraziarlo. E Gesù osservò, non ne sono stati purificati 10, e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio al di fuori di questo straniero. Ecco, da un lato il fatto che, ecco, è lo straniero, è l'eretico, è colui che non è del popolo di Israele, è colui che è emarginato, che si sa rendere conto della grazia ricevuta e torna per ringraziare, no? Che ha la semplicità per ringraziare. Per cui probabilmente noi la semplicità per ringraziare la ritroviamo, ecco, nell'umiltà, nelle nostre miserie, possiamo dire così, nelle nostre fragilità, nelle nostre eresie, potremmo dire, no? Come il samaritano. Cioè io che sono così emarginato, che dovrei esserlo, in realtà scopro l'amore di Dio che mi salva e quindi ne sono molto grato, perché mi rendo conto che non è dovuto, no? Che non è dovuto. E poi questo ringraziare è per dare gloria a Dio, è per rendere gloria a Dio. Il ringraziare dà gloria a Dio. E poi Gesù gli dice: abbi fede, alzati, e la tua fede, e va, la tua fede ti ha salvato. Sarebbe molto interessante capire cosa, con l'aiuto del Signore e della meditazione del Vangelo, cosa intende Gesù per fede, no? Lì c'è la gratitudine, c'è allo stesso tempo la fede, l'umiltà della persona che riconosce che che da Dio gli arrivano tutti i doni, non da noi stessi, no? La fede ci porta a ringraziare. Non è merito mio, non è dovuto, no? È tutto un dono, è tutto grazia, no? E così come anche un altro, sono pochi i passi in cui si parla proprio della gratitudine, e un passo anche lì è un po' quel passo di San Luca in cui Gesù dice: se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? E così continuano: se fate del bene a coloro che fanno del bene, quale gratitudine vi è dovuta? Se prestate a coloro da cui sperate di ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Noi cerchiamo di vivere la gratitudine sempre, ovviamente, no? Però Gesù spinge a amare i nemici, no? Per ricevere la vera gratitudine, cioè lì dove non abbiamo niente da ricevere, nessuna cosa in cambio, cioè la nostra azione è veramente gratuita. Cioè, libera, pura, cioè non ci aspettiamo nulla, anche se umanamente è comprensibile che tutti abbiamo bisogno di affetto, di comprensione, di sostegno, quindi lo andiamo un po' elemosinando in tanti modi. Però Gesù ci spinge a fare di più. Il Vangelo è molto forte, ci chiede cose che umanamente non siamo capaci di fare. Ci chiede di amare i nemici, no? Quindi di perdonare, perdonali perché non sanno quello che fanno, no? Questa finezza grande di Gesù che dice addirittura al Padre di essere lui a perdonare, cioè neanche lui osa dire vi perdono per non mettersi su un gradino superiore a coloro che gli stanno facendo del male. Amate i vostri nemici, amate coloro che, ecco. E allo stesso tempo Gesù ci dice anche gratuitamente avete ricevuto, quindi gratuitamente date. Il riconoscere che tutto ci viene da Dio, che tutto abbiamo ricevuto, che tutto è grazia, no? Che tutto è dono, ci porta a dare gratuitamente, no? E Signore, noi nella nostra preghiera ti diciamo a volte, quando tu ci chiedi di più, quando dobbiamo essere ancora generosi, no? Anche quando siamo stanchi, anche quando è la fine della giornata, anche quando abbiamo dato tanto, abbiamo dato a tante persone, l'ultima cosa ci può costare, no? L'ultima richiesta, l'ultima. E invece tu ci dici: io ti ascolto sempre, io ti dono sempre, io non smetto mai di pensare a te, di amarti, di donarti la mia grazia, di donarti la mia protezione, di continuamente ti do la mia Eucaristia ogni giorno, ti do il mio amore infinito ogni giorno, anche se tu non te ne rendi conto, anche se tu ti dimentichi. E allora anche tu, che gratuitamente ricevi tutto questo nella tua vita, anche tu gratuitamente dona, no? Allora, questa richiesta che facciamo al Signore in questo giorno, cioè anche domani, il 2 ottobre, che cercheremo di ringraziare il Signore di questo dono grande che ha dato a noi e alla Chiesa, però chiediamo la grazia di poter essere grati, no? E allora la chiediamo attraverso il cuore di Maria, attraverso il cuore di Maria che è sempre pronto a dare, no? Lei più di ogni altro può dire che ha fatto sue queste parole di Gesù: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Lei che magnifica il Signore perché ha guardato la sua piccolezza, perché tutte le generazioni la chiameranno beata senza merito alcuno da parte sua. Lei più di tutti comprende questa sproporzione tra la grazia di Dio e la nostra nullità. Lei ci aiuti a umilmente chiedere la grazia di essere grati e e manifestarla con piccoli gesti concreti, quotidiani, ma anche con una disposizione profonda del cuore.